Allora, Aprilia, ancora una volta presente all'EICMA, l'EICMA 2006 diciamo che chiude quest'anno, qual è il consuntivo dell'Aprilia per quest'anno? Eccellente, perché direi che siamo stati i protagonisti del salone con la Scusa 750, che è una bicilindrica utilizzata molto bella, estremamente sportiva, in stile di Aprilia, la prima moto al mondo con un sistema ride by wire, quindi estremamente interessante e sportiva. 750 sequenziale automatica, è altrettanto una novità epocale, si introduce la possibilità di guidare sia in modalità completamente automatico con tre sistemi di gestione, sport, rain e touring, oppure in modalità sequenziale a 7 marce con tratto di freno motore, quindi una cosa che è stata estremamente apprezzata anche dai nostri collaboratori e che secondo noi sarà in buona parte il futuro della motocicletta di un certo tipo di moto, perché nulla leva l'impatto sportivo al piacere di guida, anzi l'aumenta. Il motore a 4 cilindri è una sfida assolutamente enorme e bellissima di Aprilia per ritornare in Superbike l'anno prossimo. Mi ha scelto una architettura molto particolare, quindi un V4, perché il V è il nostro motore Aprilia per eccellenza, 65 gradi, perché pensiamo sia il sistema migliore per avere una ciclistica, l'architettura migliore per avere una ciclistica ottima come tradizione Aprilia, quindi il bilancio è sicuramente tutta una serie di modifiche più o meno grandi nel settore scooter, dell'Atlantic 400, lo Scarabella 250, i nuovi Scarabella 50-100, quindi siamo, penso, ci siamo mostrati vitali e mi pare che anche l'attenzione del pubblico sia stata in proporzione. Ecco, all'appassionato, al motociclista proprio che vive tutti i giorni sulle due ruote, che consiglio daresti? Perché scegliere una moto di questo tipo come la Spider? Ma perché è una moto di media cilindrata, adatta a un pubblico estremamente ampio, arriverà con un prezzo competitivo e rispetto a molte sue competitors ha una componentistica, come serve telaio, sospensioni, freni, nella tradizione Aprilia, quindi affidabile, sicura e poi anche perché non ultimo, a parte tutto questo, è anche molto molto bella e affascinante. Ecco, per il 2007, a parte la Silver, quali sono? Ci sono già dei progetti? Avete già pensato a cose nuove? Ma tutto quello che vedi qua è nuovo ed è in ottica 2007. La Mana, quindi col cambio sequenziale automatico, arriverà verso metà anno. Sarà anche questa una rivoluzione per noi epocale. Arriveranno sono altre novità a livello moto, la Tuono Factory per esempio, la Tuono acquisisce anche nella versione R il motore da 139 cavalli, la gamma scooter è pressoché rinnovata completamente, quindi sicuramente nel 2007 avremo una quantità di prodotti non indifferente. Grazie mille.